brano, microfoni aperti. E questo zio è il nostro suono, la nostra vita. Pam pam. Diamo un rumore come raggi di sole dentro questo silenzio. Siamo l'esempio tra rime e parole, qualcosa di vero che portiamo nel cuore. Una passione che brucia dentro di noi e non muore. Un suono che sentiamo dentro, fuori dall'isola, spinti dal vento. Quanti mi parlano ma non li sento. Credo nelle strade, credo nel cemento. Un obiettivo fermo, rappresentare gli isolani sopra questo movimento. La nostra è una storia scritta, tutto fa parte di me, tutto fa parte della nostra vita. Fiori G, brano, microfoni aperti. L'arte del verso tra rime e dialetti. L'arte del verso tra rime e dialetti. Sono questi microfoni aperti, rimani concreti, diretti, abbattimento di divieti e paletti. Sono questi microfoni aperti, rimani concreti, diretti, abbattimento di divieti e paletti. Microfoni armati, stretti in arti, alimentati da versi nati per darti il rap in tutti gli strati. Visi originali, fanculo agli astratti, mai distratti, non si sono mai spostati. Uniti, compatti, si sono elevati da quest'asfalto, circondati, alleati, mai scesi a patti, non danno pacchi. Solo suoni rap sui quali si sono allenati. Microfoni armati, MC spompati, finiscono spompati, attrezzati per lasciarvi spiazzati. Punteggi azzerati, brani e fiori, versi ben piazzati. Più microfono a capo per strozzarti, voglio sulle mani dei miei soldati, voglio sotto il cielo una distesa di pugni serrati. Taglio parti, più parti, da qua è meglio se parti. Sono questi microfoni aperti, rimani concreti, diretti, abbattimento di divieti e paletti. Sono questi microfoni aperti, rimani concreti, diretti, abbattimento di divieti e paletti. Microfoni armati con la rap cultura, sposati, assegnati, non assonnati, sdraiati, rilassati, incazzati, schizzati. Sto a difesa del risultato, fra non mi scarti, ho versi scaltri con i quali ti incarti. Io sto con i coloro che non sono scappati, e come me fiori qua ci restano perché ci sono nati. Lo spirito e la dialettica, uniche armi in questa guerra poetica. In un'Italia dove tutti sono attori, dove la strada dà voce a suoni dei cantori. Usiamo il rap come messaggio del nostro passaggio. L'inchiostro è sporco, il rap il nostro punto di forza nascosto. Sono questi microfoni aperti, rimani concreti, diretti, abbattimento di divieti e paletti. Sono questi microfoni aperti, rimani concreti, diretti, abbattimento di divieti e paletti. Sono questi microfoni aperti, rimani concreti, diretti, abbattimento di divieti e paletti. Sono questi microfoni aperti, rimani concreti, diretti.